furia fatto dei confini miei. Vaghi nella notte, mi risvegli quando vuoi. Fuggi dai miei occhi e non mi dici dove vai. Sei ciò che vuoi, l'ama che scintilla nei miei vetri bui. Spaldi la mia roccia e mi distilli nei deserti. Scegli la mia pioggia, ma del cielo non hai nubi. E non pretendi mai risposta. Se il mio viaggio è un'ora, senti la mia costa. Odissea che mi perdi quando penso che non siamo lontani. Non ti vedo, ma lo sento che chiami. La libertà che mi leghi come un fiocco la disciogli nei dubbi. Non invecchi, ma dimostri i miei anni. Sei vanità. Soffia su, riscaldi, lo decidi poi. Scavi nei ricordi, ma non li sotterrerai. Tanto da rimorsi come fungo emergerai. Ma mi rinnovi la fiducia, specialmente quando il tuo tormento brucia. Verità che mi imbrigli, tu lo sai, non torneremo puledri. Non imbrogli, ma se mento mi credi. La volontà che mi neghi è la stessa che distende i miei rami. Smania che si afferra ai miei polsi e frenesia dei minuti.